belong to this ideas. Football time, a revolution. Aspettando i mondiali antirazzisti. Dal 5 al 9 luglio la 21esima edizione a Bosco Albergati. Football time, a revolution. Le 16 in punto di giovedì 22 giugno, un buon pomeriggio a tutte e tutti voi che siete all'ascolto dei 103 e 100 di Radio Città Fujiko. Come sapete ormai da 3 settimane, questa è la 3ª puntata, va in onda questo speciale dedicato ai mondiali antirazzisti. Radio Città Fujiko quest'anno è radio ufficiale appunto dell'evento che si terrà a Bosco Albergati dal 5 al 9 luglio e stiamo così sondando un po' quelli che sono i temi del programma dell'edizione numero 21. Innanzitutto il numero di SMS e WhatsApp per interagire con noi, che è il 333 180 9494. Potete scriverci, fare commenti, critiche, fare richieste anche musicali, perché no. Oggi affrontiamo un tema che forse dovrebbe portare a un cambio di nome dei mondiali antirazzisti, o meglio, più che un cambio di nome, un'aggiunta, perché i mondiali antirazzisti da qualche anno a questa parte vogliono essere anche mondiali antisessisti e ne parliamo con due ospiti in studio, Tullia e Francesca, che saluto innanzitutto. Buon pomeriggio. Ciao. Ciao. Allora, voi siete della Brigata della Pace. Innanzitutto raccontate cos'è la Brigata della Pace, così arriviamo pian pianino a spiegare perché siete qui. Ok, allora, la Brigata della Pace alla fine è nata un po' di anni fa, una decina di anni fa, come gruppo di amici che avevano voglia di partecipare ai mondiali antirazzisti e quindi hanno deciso di iscriversi sotto questo nome che fondamentalmente li univa. E non c'erano poi altri motivi, nel senso che non è un collettivo, non è un'associazione, ma soltanto un gruppo di persone che ha una passione che condivide, che è quella del gioco del calcio, e quindi nasce lì ai mondiali antirazzisti come tantissime altri collettivi, tantissimi altri gruppi. Negli anni è semplicemente un po' evoluta, sia dal punto di vista numerico, ci siamo allargati, ci siamo ampliati, alcuni sono andati via e molti altri sono invece fortunatamente arrivati, e si è evoluta anche in quanto ha iniziato un po' a girare per partecipare a vari tornei oltre che ai mondiali antirazzisti. E nell'ottobre 2016 in particolare la Brigata vive un'esperienza che ha poi portato alla nascita del progetto Goal, un'esperienza vissuta a Berlino grazie al Discover Football, che è un festival di calcio femminile molto molto particolare, molto molto grande, perché anche lì ormai sono una decina d'anni che lo fanno a Berlino, e che vede al suo interno partecipare una serie di squadre femminili provenienti da paesi, alcuni come l'Italia, quindi dove il calcio femminile è abbastanza evoluto, altri invece come l'Iran, l'Afghanistan, la Palestina, dove per una donna giocare a calcio è un momento particolarmente rivoluzionario della sua vita, e spesso le storie che abbiamo sentito raccontare da queste ragazze erano storie di violenza, di enormi difficoltà, perché appunto l'emancipazione femminile in alcuni paesi è estremamente lontana da quella che viviamo qui in Italia, per quanto anche qui in Italia ci sia ancora da fare moltissimo. E niente, quindi per tornare a cos'è la Brigata, tornate da questa esperienza di Berlino, abbiamo deciso di fare qualcosa in più per questo tema, per portare avanti questa lotta, quindi la lotta al sessismo, e ci siamo unite in quello che è ancora un informale collettivo, perché non siamo costituiti in associazione, e che però vuole diventarlo, poi ne parleremo di questo più in là, e che poi niente ha portato alla nascita di un progetto che ha un valore assolutamente condiviso, che è quello della lotta all'antisessismo. Ecco, intanto è interessante osservare come appunto da semplici idee di partecipare ai mondiali antirazzisti poi nascano tanti progetti. Me ne vengono in mente anche altri che sono nati ad esempio come il Grinta, che dà vita al torneo di Mondi, o anche altre realtà, insomma ne abbiamo parlato nella prima puntata con Carlo Balestri, quindi questo, come dire, fa sì che i mondiali antirazzisti siano, come dire, veramente un terreno per progetti, forse proprio perché si respira questo clima particolare. E appunto voi presentate questo progetto che si chiama Goal. Tu lo dici in modo più stretto, io lo dico un po' più largo per far capire anche agli ascoltatrici e agli ascoltatori. Scritto Go all, esatto, cioè tipo andiamo tutti, tutte e tutto, non so, per visto che parliamo in questo caso di questioni di genere. In cosa consiste? Goal, come ha accennato Tullia, nasce proprio dopo l'esperienza a Berlino, nel senso che essenzialmente noi ci siamo rese conto di quanto il calcio potesse, oltre che far divertire, anche unire e permettesse anche di superare tutta una serie di stereotipi e di barriere che purtroppo in tante parti del mondo, anche in Italia, si creano. Per cui dopo l'esperienza di Berlino, forti dell'esperienza di Berlino e anche dei contatti stabiliti in quel contesto, abbiamo pensato di portare un progetto quantomeno simile in Italia. Chiaramente il nostro progetto è differente da quello del Discover Football, prima di tutto perché si tratta di un progetto di calcetto misto. Però detto questo, è nato sull'onda del Discover e non poteva che inserirsi nei mondiali antirazzisti, per cui abbiamo preso contatti con WISP ed è nato quello che adesso è Goal, per l'appunto. Non so se Tullia vuole aggiungere qualcosa sulla nascita di Goal. No, hai racchiuso tutto, nel senso che Goal appunto nasce in questo modo, e poi la differenza fondamentale dal Discover è che Goal, come appunto detto Frankie, è un progetto misto, che vuol dire? Non vuol dire soltanto maschi e femmine, ed è esattamente questo il valore aggiunto che il progetto va ad apportare ai mondiali antirazzisti. Non perché i mondiali antirazzisti non se ne occupassero già, perché chiaramente sono un festival assolutamente antisessista, ma noi ci siamo particolarmente dedicate a questo argomento, a questo tema, e quando parliamo quindi di calcio misto noi intendiamo l'inclusione di tutte quelle soggettività che non si inseriscono nel binarismo maschio-femmina, ma che vanno al di là. Possiamo parlare del sesso biologico intersessuale, ma così come delle persone transessuali, o come di tutto il tema gender fluid e gender queer, di cui in questi giorni tra l'altro tanto si parla, perché in alcuni stati statunitensi è stato appena approvato per esempio una legge che va ad ampliare la tipologia dei vari sessi biologici sui nostri documenti. Noi siamo abituati ad avere una M o una F. In alcuni paesi, come in Germania, come in Australia, esiste anche il terzo sesso biologico, che è l'intersessualità. In alcuni altri, come per esempio in alcuni stati negli Stati Uniti d'America, in particolare parlo dell'Oregon, e questa è una notizia molto recente, si è introdotta una X proprio per ampliare questo spazio del sesso biologico a tutte quelle categorie che non sono inseribili nel binarismo maschio-femmina. Questi sono argomenti estremamente nuovi e anche molto complessi da trattare, e c'è probabilmente chi ancora rimane particolarmente perplesso, chi non ha minimamente idea neanche probabilmente di cosa sia un intersessuale, né del motivo per cui dovremmo distinguerci in qualcosa che vada al di là dell'essere maschio o dell'essere femmine. E il nostro progetto, infatti, poi non so se posso andare avanti da questo punto di vista, ma mi fa piacere appunto accennarvi a in che cosa consiste per l'esattezza. Noi, oltre ad aver invitato una serie di squadre LGBTQ provenienti da un contesto internazionale, quindi da vari paesi, abbiamo la Serbia, la Turchia, la Francia ed altri, abbiamo anche dato il via a una parte educativa culturale, questo proprio perché per iniziare ad affrontare queste tematiche è indispensabile innanzitutto iniziare a parlare di questi argomenti e formare le persone. Il popolo dei mondiali è sicuramente un popolo abbastanza avvezzo alle novità, abbastanza aperto anche alle diversità. È chiaro tuttavia che trattandosi di numeri come 6.000-7.000 persone all'anno di partecipanti, oltre che ai tornei anche in serata, oppure ai vari momenti culturali, ai vari panel, è inevitabile che alcuni di questi non siano particolarmente formati su tutti gli argomenti che trattano i mondiali. I mondiali parlano non solo di antirazzismo e antisessismo, ma di ecologia e di tanto altro. Quindi è inevitabile che affiancare alla pratica sportiva e alla pratica culturale è indispensabile introdurre dei momenti educativi o anche delle strategie educative. Noi ne abbiamo ipotizzate un paio, speriamo che abbiano i risultati che ci auspichiamo. Ecco. Non bruciamoci tutto subito, adesso andiamo con un po' di musica e poi torniamo qui fra poco in diretta aspettando i mondiali antirazzisti. fuori e dentro al campo, mille vittorie. E sulle note di Los Fastidios, che come sapete suoneranno ai Mondiali Antirazzisti nella giornata del 6 luglio, torniamo in diretta aspettando i Mondiali Antirazzisti. Oggi siamo in compagnia di Tullia e Franchi della Brigata della Pace, del progetto GOL, che appunto ci stanno raccontando appunto il percorso che hanno fatto e che vedremo poi concretamente anche all'interno dei Mondiali Antirazzisti, anche con un dibattito, ma di questo appunto parleremo fra poco. Io riprenderei il filo del discorso da dove l'avevamo lasciato, cioè la questione del binarismo di genere che viene applicato in tutti gli sport. Se un ragazzino o una ragazzina cominciano a fare sport, vengono divisi nella sezione maschile o femminile, a seconda poi, tra l'altro, in alcuni sport non c'è la sezione femminile, e quindi insomma siamo abituati a ragionare, perché l'impostazione anche del mondo dello sport, ma un po' di tutta la società, ma in particolare il mondo dello sport, è questa. E come si fa a superare questa impostazione? Ma questa impostazione è molto difficile da superare, prima di tutto. Però noi ci proviamo, abbiamo iniziato a provarci appunto con GOL. Si supera informando le persone. Questo è sicuramente il primo step. Abbiamo elaborato una serie di strategie di cui magari vi parleremo dopo, perché hai detto che non vuoi che ci bruciamo tutto subito. E quindi diciamo, si supera informando le persone e si supera intanto appunto rendendo misto un torneo che prima era diviso in sì misto ma anche femminile, per cui da quest'anno i mondiali saranno unicamente misti. La nostra idea è che misto sia un aggettivo che non si deve neanche più accostare al calcio, cioè che il calcio diventi semplicemente calcio, quindi non calcetto misto per cui i maschi giocano con le femmine, no, semplicemente 10 o 22 o quante persone vogliamo giocano a calcio le une contro le altre. Poi come queste persone si definiscano da un punto di vista del genere non deve interessare a noi, ma deve interessare solamente loro, o probabilmente arriveremo a un mondo in cui non c'è neanche bisogno che loro si definiscano in qualche modo. Però proprio questa divisione binaria crea anche dei problemi pratici e logistici, no? Nel mondo dello sport. Sì, crea dei problemi pratici e logistici, e lo abbiamo visto anche nelle cronache degli ultimi mesi, cioè purtroppo le problematiche anche ormonali, per esempio, si è parlato di livelli di testosterone, di misurare qualunque tipo di ormone possibile per dimostrare che un atleta fosse più maschio che femmina o più femmina che maschio. Cioè, sono tutte le problematiche che ci sono state e che ci sono ancora. Purtroppo è molto difficile definire, è molto difficile stabilire, diciamo, dei cut-off, perché alla base di tutto c'è il pregiudizio e c'è la disinformazione. Ecco, andiamo un po' nel dettaglio dei problemi che incontrano, ad esempio, le persone transessuali quando vogliono fare sport. Beh, il primo ostacolo che incontrano è innanzitutto appunto quello di avere un documento all'interno del quale il proprio sesso biologico non corrisponde a quello che loro invece percepiscono come più appropriato per la propria soggettività. E quindi di conseguenza, quando tu tenti di iscriverti in una competizione agonistica soprattutto, inevitabilmente tu hai un documento che ti dichiara, ad esempio, una femmina, mentre tu sei un F2M, e dico, quindi un female to male, ovvero un transessuale il cui sesso di elezione è quello maschile. E il primo ostacolo che quindi incontri è l'incongruenza tra quello che tu senti di essere e quello che tu vuoi diventare rispetto al sesso dove la società vorrebbe infilarti. E ogni persona quando nasce viene inevitabilmente inserita nel sesso maschile o nel sesso femminile. E non tutti, successivamente col passare del tempo dalla propria nascita, hanno un'identità di genere che corrisponde al sesso biologico attribuitogli alla nascita. Questo è il primo concetto chiave da comprendere e da accettare. Non è una malattia, non si cura, e non c'è alcun bisogno che questa cosa sia differente, è più che naturale, è così dai tempi dei tempi. E fortunatamente in questo periodo in città magari come Bologna e forse probabilmente meno in altre città meno aperte si vede questo cambiamento. Il mondo, alcune società stanno effettivamente cambiando, e in città, con la fortuna che abbiamo noi di vivere in una città come Bologna, in città è molto palese che l'espressione di genere ha un più ampio raggio d'azione, perché c'è meno discriminazione da questo punto di vista. E tornando alle difficoltà incontrate quando ci poniamo di fronte alla questione sportiva dal punto di vista soprattutto agonistico, il transessuale è in un punto buio all'interno del quale non sa esattamente come muoversi. E il Comitato Olimpico Internazionale nel 2016 ha introdotto una normativa che prevede la possibilità per i transessuali di partecipare alla competizione olimpica. Questa è una cosa estremamente attuale, estremamente recente. Ci sono delle problematiche che sono ovviamente state fatte notare dalla comunità LGBT, soprattutto dal movimento transessuale. Le problematiche sono quelle che riguardano la necessità di un'operazione che ti va praticamente a identificare anche fisicamente come una persona di un sesso opposto, oltre a dei livelli ormonali che vanno costantemente controllati, per cui il transessuale è obbligato ad assumere determinati ormoni. Questo parliamo chiaramente degli N2F, perché la questione non si pone al contrario. Una femmina, una persona nata femmina che però vuole diventare uomo, ovviamente quando va a competere nelle gare è svantaggiato. Viceversa, il problema degli N2F è che potrebbero fisicamente, per caratteristiche biologiche naturali maschili, potrebbero avere dei vantaggi competitivi. Il problema è tutto lì, cioè è quello. Il problema è il vantaggio competitivo che proviene dal mio essere nato biologicamente maschio, quindi con dei cromosomi maschili e quindi con una muscolatura inevitabilmente maggiore e con tutte le caratteristiche, le conseguenze di dell'essere nati biologicamente maschi. Quindi il Comitato Internazionale Olimpico prevede l'assunzione di determinati ormoni che riducono il testosterone fondamentalmente fino a un determinato livello, che deve essere mantenuto costante per un periodo di tempo che è pari a un anno, per poi permetterti di gareggiare. E questo ha delle conseguenze non necessariamente indifferenti, perché comunque assumere ormoni ha delle conseguenze fisiche. Purtroppo un altro limite che abbiamo è che la ricerca scientifica non è molto sviluppata in questo argomento, in questo tema, perché non si è ancora identificato quanto l'ormone testosterone effettivamente vada ad inficiare o vada a migliorare le capacità fisiche di un atleta. Io purtroppo non sono un'esperta in questo campo, per cui mi limito a darvi le informazioni un po' più generiche che ho anche io e che mi piace quindi diffondere, perché in effetti spesso non ci si pone neanche di fronte a questa problematica. La maggior parte delle persone non sono transessuali e il nostro problema tendenzialmente finisce lì. E quindi diciamo che dei passi piccolissimi avanti si stanno effettuando. Poi spesso mi viene fatta la domanda: ma se un F2M vuole fare pugilato, come la mettiamo? Se un M2F vuole diventare un pugile, quindi una persona nata biologicamente maschio che poi desidera diventare una donna che lo diventa e che però comunque ha una stazza e una fisicità da maschio, che si a quel punto inserisce in un campionato di pugilato femminile, come la poniamo, e sono questi i problemi reali più che quelli burocratici, perché l'inserimento di un terzo sesso biologico su un documento di identità o all'interno delle tessere sportive e associative è una formalità, non ci vuole niente ad inserire un terzo sesso biologico o un ulteriore sesso biologico che può essere una X oppure un altro, se non mi riesco a identificare nel maschile o nel femminile. Le problematiche sono poi quelle pratiche, quando ci si va a incontrare, a scontrare sul campo da gioco, è inevitabile, ed è anche bello che ci siano queste differenze fisiche. Noi non siamo assolutamente contrari, e questo è molto importante, alla persistenza e alla coesistenza di tornei maschili, tornei femminili, di fianco però a dei tornei misti, che vadano quantomeno anche agonisticamente a ridurre queste problematiche, a ampliare l'inclusività dello sport, perché lo sport supera tante barriere in una maniera particolarmente semplice e anche molto economica, volendo. Non bisogna investirci poi chissà quanto denaro per riuscire ad affrontare determinate discriminazioni in questo modo e a superarle di conseguenza. E di conseguenza noi proponiamo semplicemente la pratica sportiva mista come superamento, e lo auspichiamo anche dal punto di vista agonistico, competitivo e quindi magari professionistico, come superamento di tutte le barriere alle persone intersessuali, transessuali o semplicemente alle soggettività che non si identificano totalmente e completamente nell'essere maschio, nell'essere femmina, e che non vogliono scendere a questo compromesso pur di praticare dello sport. Ecco, tu hai detto professionismo, e questo è un altro tasto dolente anche per le persone eterosessuali, comunque non solo la questione LGBT, perché, come dire, i campionati femminili vengono relegati al dilettantismo. Esatto, questa è un'altra problematica sulla quale puntiamo molto, ed è quello proprio del porre all'attenzione della società e delle cose fondamentali. La prima, innanzitutto, che precede ancora il professionismo, è che non esistono sport da donna e non esistono sport da maschio. E tu prima hai detto che molte donne sono escluse da alcuni sport, ma anche molti uomini sono esclusi da molti sport. Un esempio fra tutti è per esempio il nuoto sincronizzato. Il nuoto sincronizzato, io non so se qualcuno di voi abbia mai visto una squadra maschile di nuoto sincronizzato, io personalmente no, e quando mi sono confrontato un paio di settimane fa con una maestra di nuoto sincronizzato, le ho chiesto molto spontaneamente se vi fossero dei maschietti in questo gruppo di bambini, e lei quasi in maniera sconvolta mi ha detto: ma no, assolutamente non è uno sport da bimbi. Io questa frase non arrivo neanche a capirla, sinceramente. Quindi purtroppo anche la danza classica è soggetta, i ragazzi che fanno danza classica sono soggetti a discriminazioni, per non parlare poi degli ambienti scolastici, dove si creano forme di bullismo anche semplicemente per lo sport che pratichi. Questo vale per le donne, vale per gli uomini, e vale per i bimbi, per le bimbe, e vale in generale, purtroppo. Quindi e un ulteriore problema di fianco a questo, perché forse se comprendessimo questo, il professionismo sarebbe una conseguenza dell'aver capito che alcuni soggetti non sono meno bravi di altri per la semplice appartenenza a un sesso o un altro. Il calcio, le donne e il professionismo sembra che non possano combaciare. Le motivazioni sono sicuramente culturali, sono sicuramente sociali. Il ruolo della donna è tradizionalmente collegato al ruolo della madre casalinga. Pian piano, soprattutto nelle ultime generazioni, nel mondo occidentale perlomeno, stiamo facendo dei gran passi avanti. Credo che il professionismo femminile sia alle porte, non lo abbiamo ancora raggiunto, ma mi auspico che manchi veramente molto poco per la realizzazione di questo obiettivo veramente piccolo. Ecco, ma che vantaggi ci sono per il professionismo? Cioè, appunto, parlando invece di sport, tipo lo sport popolare, è quello che ha punte più avanzate su molti temi, no? Quali sono i vantaggi del professionismo? È una questione di economica, è una questione di poterne fare proprio una professione, quindi fare quello di mestiere? Perché si deve poter accedere? Beh, prima di tutto il fatto di sapere a priori che una bambina non potrà mai vivere di calcio probabilmente distrugge i sogni di tante. Così come, cioè, pensiamo, se noi dicessimo a tutti i bambini, a tutti i figli di famiglie italiane maschi che non potranno mai diventare dei calciatori, penso che in tanti ci rimarrebbero parecchio male. Quindi diciamo che partire a priori con l'idea che se sei femmina, non solo nel calcio ma in realtà nella maggior parte degli sport, non potrai diventare professionista, o quantomeno magari lo diventerai ma non camperai mai di quello, E sicuramente distrugge tanti sogni. Per cui per me questo è un problema non da poco. Non indifferente, certo. No, io intanto faccio anche l'avvocato del diavolo, perché permetto a voi di spiegare anche le ascoltatrici e gli ascoltatori. Un'altra pausa musicale, poi ci sarà la pubblicità, poi torniamo insieme. Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cellophane, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Fra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quante ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in città. E i francesi ci rispettano, che le palle ancora gli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema e al cinema ci tu. Zazzazzaraz, zazzarazzaz, zazzazzarazzaraz, zazzazzaz. È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, forse han voglia di farla pipì. E tramonta questo giorno in arancione e si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che io sto qui aspetto Bartali, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro. Tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano, c'è un po' di vento, appaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu. Arratata, arratata, taradata, arratata, tarada, arratata, arratata, arratata, taradata, arratata. Tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano, e tu mi fai, dobbiamo andare al cinema e al cinema ci tu. Zarrazazzaz, zazzarazzaz, zazzazzarazzaraz, zazzazzaz. I belong to these ideas, football time, a revolution. Aspettando i mondiali antirazzisti. Dal 5 al 9 luglio la 21esima edizione a Bosco Albergati. Football time and revolution. Le 16:31, torniamo in diretta aspettando i mondiali antirazzisti in questa terza e penultima puntata, poi ci sarà la settimana prossima e poi cominciano i mondiali, quindi dobbiamo essere là. Oggi stiamo parlando di lotta al sessismo e ogni forma di discriminazione di genere all'interno dello sport, insieme a Tullia e Franchi della Brigata della Pace, che seguono il progetto GOAL. A proposito del progetto, ci avete raccontato prima che ci saranno diverse squadre che provengono un po' da diverse parti del mondo che porterete ai mondiali antirazzisti. Raccontateci un po' qualcuna di queste squadre. Molto volentieri. Allora, noi abbiamo quindi scelto un gruppetto di squadre da invitare ai mondiali antirazzisti, che un po' rappresentassero nei valori, nelle ideologie, tutto ciò che vi abbiamo finora raccontato, quindi che anche nelle loro realtà fossero fondamentalmente un po' degli attivisti dal punto di vista dei diritti delle donne, dell'emancipazione femminile, ma anche chiaramente dei diritti LGBTQ. E per cui siamo riusciti a invitare, a coinvolgere in tutto ciò una squadra che tra l'altro è la prima volta che arriverà ai mondiali, una squadra dalla Serbia che si chiama FemSlam ed è composta da un gruppo di ragazze ed un gruppetto di F2M, quindi di transessuali. Siamo molto orgogliosi di averli proprio perché per due motivi principali: uno, perché è la prima volta che una squadra serba tocca il campo dei mondiali, e il secondo perché è la nostra squadra clou rappresentativa appunto del movimento transessuale, e ne siamo molto molto felici, il che ci ha posto anche un po' non in difficoltà, però ci ha creato un po' il dibattito in merito alla presenza dei bagni maschili e dei bagni femminili all'interno dei mondiali. Per ritornare questo... anche ai problemi pratici, insomma. Esatto, perché poi è tutto lì, che è lì, è in quello che sta l'innovazione e i passi avanti. E quindi, insomma, noi abbiamo ipotizzato varie soluzioni. Quest'anno di certo una delle soluzioni che verrà improntata e attuata sarà quella di dare un po' più di privacy all'interno delle docce, in modo che una persona possa magari cambiarsi, spogliarsi e rivestirsi in un contesto piuttosto riservato per evitare confronti magari non graditi. E successivamente negli anni l'intento sarebbe quello di proporre delle docce o dei bagni a gender, che quindi affiancati a quelli maschili ed affiancati a quelli femminili, perché non si vuole togliere nulla ma si vuole soltanto aggiungere, potrebbero dare un po' di serenità in più per tutte quelle persone che non hanno voglia di decidere anche il sesso quando hanno bisogno di andare a farsi una doccia o semplicemente di andare in bagno, ecco. E dopo la squadra serba abbiamo poi una rappresentanza degli amici del Discover Football, in parte da Berlino e in parte da Parigi, una squadra ucraina, che è una squadra femminile di donne che giocano a calcio in maniera non professionistica chiaramente, ma in maniera competitiva, per cui partecipano a un campionato, e sono le NRG. E dopodiché abbiamo due squadre turche meravigliose che arriveranno tra l'altro numerosissime, da Ankara e da Istanbul, l'Atletico Dildoa e le Sportif Lezbon, una rappresentanza, un'ulteriore rappresentanza da Parigi del Paris Arc-en-Ciel, anche questo un gruppo di persone, di attivisti dei diritti LGBT molto molto interessanti e sicuramente meritevoli di partecipare a questo progetto. Poi abbiamo una squadra portoghese, che sono invece i Rede Ex Equo, spero che la pronuncia sia corretta, e loro sono una squadra mista legata ad un movimento LGBT molto molto attivi nella loro realtà, che utilizzano anch'essi lo sport come mezzo di superamento delle barriere, delle difficoltà, dei limiti. Ecco, poi all'interno dei mondiali ci sarà uno spazio di un dibattito, diciamo un incontro, per approfondire anche queste tematiche. Tra l'altro noi lo trasmetteremo in diretta, perché appunto ormai le ascoltatrici e gli ascoltatori lo sanno, siamo in diretta da là, e quindi faremo diverse incursioni nel corso del palinsesto di Radio Città Fujiko. Quando e di cosa si parlerà? Allora, si tratterà di un panel che avrà luogo il 6 luglio alle 18, e il panel si chiama Gol Tutti in Campo, ovviamente, e avremo vari ospiti, di cui direi i due più importanti sono Elena Toffolo, che è la segretaria nazionale di Arcilesbica, e Manuela Claisset, che è la responsabile UISP per le pari opportunità. Ovviamente a loro si affiancheranno alcuni rappresentanti delle nostre squadre, e l'argomento sarà appunto il superamento delle barriere tramite il calcio misto e tramite ovviamente la lotta per le pari opportunità e per i diritti LGBTQ. Di conseguenza i vari rappresentanti delle squadre e Manuela Claisset e Elena Toffolo parleranno ognuno della propria esperienza e di come personalmente combatte queste battaglie quotidianamente con i mezzi che ha a disposizione, che chiaramente sono anche molto diversi a seconda delle realtà da cui queste persone provengono. Quindi si preannuncia un panel interessante, per cui venite numerosi. Ecco, tornando un attimo ai tornei, ecco, una cosa che forse non ho colto io, forse non abbiamo sottolineato abbastanza, quindi quest'anno non ci saranno tornei maschili, femminili, ma saranno solo misti. Sì, sarà solo misto, e in realtà non è una così grande novità, nel senso che i mondiali hanno sempre avuto un torneo squadre miste, certo. E di fianco al torneo misto tendenzialmente veniva affiancato un torneo femminile. Questo aveva assolutamente il suo senso ed era più che giusto, e dai tempi, ovvero ti parlo forse di 6 anni fa, e dai tempi quindi della sua nascita fino ad oggi è stato utilissimo. Utile a cosa? A far vedere che ai mondiali antirazzisti c'erano delle donne che erano perfettamente in grado di giocare a calcio, di affrontare una partita di pallone. E quindi l'istituzione del torneo femminile nasce proprio dalla necessità di dare loro visibilità. Per lo stesso motivo viene eliminato. Viene eliminato perché attraverso un unico torneo misto, oltre a dare spazio non solo alle donne ma anche alle soggettività di cui abbiamo parlato finora, transessuali, intersessuali, gender queer, eccetera, eccetera, si finalmente crea un unico ambiente, unico, e la parola fondamentale è unico, ambiente in cui tutti giochino, indipendentemente da orientamento sessuale, religione, colore della pelle, provenienza, identità di genere, espressione di genere, eccetera, eccetera. Certo, abbiamo fatto riferimento varie volte nel corso di questa puntata a due pratiche educative che avete, diciamo, elaborato. È arrivato il momento di raccontarcele. Certo, parto io con la prima. La prima è una cosa a cui siamo molto molto legati, che è la nascita di questo quadernetto di buona convivenza ai mondiali antirazzisti, che verrà distribuito ovviamente gratuitamente a tutti i partecipanti dei mondiali e che poi verrà anche diciamo pubblicato in PDF sul sito dei mondiali affinché possa essere scaricato gratuitamente online e magari utilizzato in altri contesti, che riguarda fondamentalmente la buona convivenza ai mondiali antirazzisti e non solo. È un quadernetto tra virgolette educativo che tratta il tema del genere, ecco, e ha una prima sezione dedicata a una serie di definizioni in modo da ampliare il dizionario sulla tematica gender di tutti coloro che lo leggeranno, e successivamente ha una seconda sezione molto piccolina, quindi non è una roba impegnativa da leggere, anzi è una cosa che piacevolmente tra una partita di pallone, una birra e un po' di relax può essere sfogliato durante i mondiali stessi. E la seconda parte contiene invece una sorta di invito al ridurre qualsiasi tipologia di pregiudizio e qualsiasi giudizio dato per l'appunto a priori senza la conoscenza, perché si ritiene che la conoscenza sia fondamentale per evitare di discriminare semplicemente ciò che non conosci, tutto lì. E quindi si insegna un po' che perdere fondamentalmente è più importante che vincere, quando a perdere quando ciò che perdi è il pregiudizio, è la voglia di supremazia, la voglia di scavalcare l'altro e la voglia di arrivare primi, perché poi i mondiali lanciano questo messaggio fondamentale: non è importante vincere, è importante perdere. Quando parliamo di queste cose ai mondiali, se tutti riusciamo a perdere un po' di tabù, pregiudizi e ideologie sbagliate, motivate sicuramente da tutto un percorso sociale e culturale che tutti noi abbiamo vissuto, ne usciamo tutti vincitori, ecco. Non so se avete suggerito questo slogan agli organizzatori, perché tra cui figurate, perché è molto efficace. L'importante è perdere. È interessante, interessante, merita di essere sviluppato. La seconda pratica educativa? La seconda pratica educativa, in realtà, a parte appunto il panel e il quadernetto, un altro esperimento che stiamo tentando di fare è quello di, ne parleremo poi in maniera più approfondita anche alle squadre attraverso una mail che verrà inviata tra qualche giorno, è quello di far compilare un questionario a tutti i partecipanti riguardante la discriminazione percepita da tutti i soggetti che lo compileranno. Questo questionario non riguarda soltanto il genere, riguarderà anche il razzismo, quindi gli immigrati, riguarderà anche la disabilità. E è un questionario che si compilerà in 2 minuti, quindi anzi anticipiamo una richiesta molto forte e sentita da parte degli organizzatori dei mondiali, rivolta a tutte le squadre, di darci una mano e di aiutarci quindi nella stesura di questa sorta di ricerca, che altro non vuole che andare a comprendere quanto ci sia ancora da fare e quali potrebbero essere i modi migliori per ridurre ancora di più le barriere che ci separano, per il semplice fatto che siamo differenti e non perché ci siano delle ragioni reali e concrete che ci vanno a individuare in delle categorie differenti: etero, gay, disabile, abile e così via e così via. In realtà siamo tutte persone. E questo questionario, per cui, è un'altra strategia che il progetto utilizzerà per andare proprio a tastare il terreno dato che i partecipanti sono tanti, per cui anche i numeri potrebbero essere tanti e i risultati potrebbero essere molto interessanti, soprattutto per andare ad identificare quelle che potrebbero essere le pratiche per gli anni futuri maggiori, quelle con un maggiore impatto dal punto di vista proprio di superamento della discriminazione e del pregiudizio, quali potrebbero quindi essere le attività da implementare, le novità da implementare per i prossimi anni. Ecco un'ultima domanda che è più una curiosità, no? Negli ultimi anni abbiamo visto il manifestarsi dell'integralismo e anche del neofascismo, in alcuni casi no gender, che nelle scuole tentano di ostacolare i progetti che invece aiutano a superare i pregiudizi. Avete mai pensato, avete già pensato di lavorare anche a livello educativo nelle scuole? Sì, assolutamente, assolutamente sì, anche perché è da lì che si deve cominciare in realtà, perché formare a questo genere di pensiero le persone che poi un domani costituiranno la società è il primo passo sicuramente, quindi assolutamente ci muoveremo anche in questo senso, è già in programma. Certo. E poi aggiungo semplicemente che una nostra compagna di avventure, una nostra collega di Gol, lavora già con Cassero ed Arcigay all'interno delle scuole, promuovendo, grazie alla collaborazione di fondamentale di Arcigay da questo punto di vista, dei laboratori veri e propri sul genere. Prima parlavi di Torneo di Mondi, noi al quale abbiamo partecipato fortunatamente, perché è stato un anno meraviglioso al Di Mondi, e noi abbiamo proposto in due giornate del Di Mondi con questa ragazza che si chiama Caterina due workshop, chiamiamoli così, ma possiamo anche chiamarli discorsi informali tra noi e gli altri partecipanti, proprio sul genere, per cui in realtà oltre che ai mondiali antirazzisti noi abbiamo tentato di ampliare il nostro raggio d'azione. Magari l'anno prossimo, probabilmente l'anno prossimo riusciremo a farlo a maggior ragione. L'idea per esempio del quadernetto, che è stato poi stilato anche grazie alla collaborazione, oltre che chiaramente di WISP, anche dell'Università di Modena e Reggio, ma soprattutto dell'assessorato delle pari opportunità di Bologna e di Castelfranco, da queste varie personalità ci sono arrivate delle richieste di ipotizzare una stesura ad hoc per le scuole e quindi di poter magari continuare a lavorare anche da questo punto di vista l'anno prossimo. Io vi ringrazio per la vostra disponibilità, per essere state con noi. Grazie e a te. Fra poco non è finita la trasmissione, perché fra poco sentiremo l'intervista a Olly degli Shandon, che suonerà proprio i mondiali antirazzisti. Però intanto grazie alle Brigate della Pace. Grazie, ciao a tutti, grazie, ci vediamo ai mondiali. Ciao. Meroni vendrà bebecca lo si è best. Zigoni Petrini contari Bowen. Carrincia con Garritano, Ayala poi Rivelino, Giuligno con Valderrama, con le York, Eusebio Mazzole, Puskás, Di Stefano, Gige, Stoikov, Ferrini, Moschino, Puglia e Cereser. È come dimenticarsi di Pelé. Davanti a me la porta rimane vuota, Nikita farà un'uscita lasciando tra il palinconio di Rienzo. Non ci gioco più, non mi piace più, è un fan per noi, non somiglia a noi, questo calcio degli affari. Neroni vendrà, becca lo si è best. Zigoni sono miei. Le figu nei pantaloni, la fede negli striscioni, le grida liberatorie dopo un gol. Le maglie senza le scritte, la palla che va nel sette, e tutta la vita ad aspettare un gol. Non ci gioco più, non mi piace più, e non fa per noi, non sa mia noi. Io però ci casco ancora, vivo ancora l'avventura di gridare. Però di vendra per peccato si è best. Meroni vendra per peccato si è best. Torniamo insieme in questa puntata di Aspettando i Mondiali Antirazzisti e continuiamo allora il nostro viaggio alla scoperta delle band che si esibiranno appunto sul palco di Bosco Albergati, ricordo, Mondiali Antirazzisti dal 5 al 9 luglio. E nella giornata dell'8 luglio, come abbiamo già anche avuto modo di dire, ci saranno tante band, ma gli headliner saranno gli Shandon. Noi siamo in collegamento telefonico con il frontman Olly, che saluto. Ciao Olly. Ciao a tutti. Allora, è la prima volta che suonate i Mondiali Antirazzisti? Sì, è una cosa relativamente... Abbiamo suonato veramente in tantissime realtà italiane e quella ce la siamo proprio fatta mancare. Insomma, quindi mancava questa per, come dire, chiudere il cerchio in un certo senso. Esatto, sì. Ecco, è il contesto è un po' particolare, poi ovviamente quando arriverete lo toccherete anche con mano. Come dire, è un festival, si parla di festival in realtà, appunto, poi lo sport è il principale collettore, però con un certo tipo di impegno, cosa che forse in Italia va sempre meno di moda. Tu che ne pensi? Ma io credo che in un certo senso in Italia, specialmente sui media, stia succedendo questa cosa terribile che se tipo muore qualcuno, succede una strage oppure cade uno dalle scale, ci sono 1100 like. Se uno invece fa qualcosa di buono non lo dice a nessuno, e quindi questa cosa è abbastanza brutta, tipica un po' del nostro paese, che amiamo i fallimenti ma i doveri, gli sbattimenti li vediamo sempre come una cosa che non è molto cool. La cosa figa è che recentemente sono stato in Russia a fare una cosa che praticamente è uguale ai mondiali antirazzisti, anche se lo sfondo non è il razzismo. C'erano squadre di tipo 16 nazionalità del mondo ed è praticamente lo stesso progetto, e anche lì la stessa cosa, nonostante c'è dietro veramente un sacco di denaro per organizzare questo evento benefico, se ne parla pochissimo, invece succede una piccolissima strage e internet sbomba. Certo. Ecco, a proposito di impegno, io ho visto che tu sei proprio tu in prima persona, hai partecipato al progetto Redophonic. Sì, infatti ero in Russia proprio con il progetto. Ah, era quello, esatto. E in cosa consiste? Possiamo spiegarlo un po' agli ascoltatori? È una sorta di nazionale del rock italiano. Sono stati dentro dai più grandi ai più piccoli, nel senso che non è un progetto tipico dove se non c'è il personaggio famoso non si riesce a fare musica. Ci sono dentro personaggi di una scena relativamente piccola fino ad arrivare a, non so, Caparezza piuttosto che Giuliano di Negromaro, eccetera. Negli ultimi 10 anni sono stati realizzati 3 dischi e mezzo, diciamo, e adesso tra un po' uscirà il quarto, non con gli introiti del disco, perché sappiamo tutti che ormai col disco non si guadagna praticamente niente, ma con la sensibilizzazione, gli eventi, eccetera eccetera. In questi 10 anni sono stati fatti quasi 170 pozzi in una regione super arida africana, dove praticamente non piove mai e non c'è acqua, quindi le persone sono costrette a farsi più di 10 ore di cammino per una, diciamo, una sidella d'acqua. E niente, siamo riusciti a realizzare quasi 170 pozzi, 2 scuole, delle cisterne per l'acqua piovana, tutto grazie al rock. Insomma, quindi questo è una cosa importante, perché appunto la musica può essere anche veicolo di azioni di beneficenza, diciamo così. Beh, ci tengo a dire che è un progetto trasparente, perché molto spesso la sensibilizzazione, le cose benefiche hanno sempre un po', sai, quella cosa che non sei mai sicuro dove andranno a finire i tuoi soldi, eccetera, eccetera. Mentre qui non ci sono filtri, nel senso che quando uno dona dei soldi vanno direttamente sul conto corrente di dove si comprano i pozzi per poterli fare. Non ci sono filtri, tipo, che vanno prima su un conto italiano, di un ente nazionale, eccetera, eccetera, dove magari quei soldi vanno a finire in tasse o altre cose. Cioè, lì va direttamente lì. Quindi ci tengo a dire che non ci sono filtri, quindi in un certo senso non ci sono speculazioni. Certo, questo è importante, perché spesso anche chi, come dire, decide di dare soldi ad esempio a organizzazioni, a grandi organizzazioni, poi non ha la certezza che vadano, esatto, a buon fine. Tornando alla musica, tornando ai mondiali antirazzisti, sapete già che tipo di show porterete sul palco? Ma in questo momento noi siamo in giro da un anno e mezzo, più o meno, quasi due, e diciamo che più o meno la scaletta è cambiata 700 volte, però abbiamo tipo 35 pezzi in scaletta che girano un po'. Quindi insomma, spaziate nella vostra discografia. Sì, sì. Anche se l'ultimo EP che abbiamo fatto è un EP di cover di band italiane, diciamo anni 80-90, perché volevamo realizzare una specie di tributo a quello che è stata una scena italiana che ha cambiato le cose. Quindi band come Casino Royale o, non so, Ritmo Tribale. Al posto di fare delle cover di band americane, abbiamo fatto un progetto così e stiamo cercando di portarli anche dal vivo. Certo, quindi insomma non sentiremo solo pezzi originali degli Scandal, ma anche cover, quindi. Sì, anche lì ci tengo a dire, l'aspetto delle cover è una cosa che non sono molto avvezzo alle cover o alle cover band, quindi certo, volevo che si capisse che era un tributo a un periodo storico che ha cambiato la musica alternativa italiana e non, ah, stiamo diventando una cover band. No, no. Quindi, no, perché è un concetto veramente molto lontano da me. Certo, certo. Non mi resta allora che ringraziarti e ricordare sabato 8 luglio gli Scandal mondiali antirazzisti. Grazie mille, Olli, per la disponibilità. Grazie a voi, a presto. A presto. Crazy people became wild in a very old school style. Every fools became a party. And the new wave was just starting. Oh, yeah. Do you remember Doortown? Some real rock and roll stuff. A burning feet and broken bones live. But the skateboard was a crime. Oh, oh, skate down, be honest with you. Skate down, just straight ahead on. Skate down, let's start a singing. About that crap, I just care about my own they ride. Just care about their own ride. And the people on this scene, oh, yeah. No matter how many times you fall or how many times you fail, feel perfection in reaction for somebody to cry. Oh, oh, be honest with you. Just straight ahead on. E sulle note degli Scandal con Skate Ska, perché lo skate comunque è uno sport e quindi ci sta bene ai mondiali antirazzisti, che vi ricordo dal 5 al 9 luglio nel parco di Bosco Albergati, Castelfranco Emilia, Modena. Noi siamo arrivati alla fine di questa penultima puntata di Aspettando i mondiali antirazzisti, che dunque ritorna giovedì prossimo. E la puntata che avete ascoltato sarà disponibile da domani sul sito radiocittafugico.it. Abbiamo fatto un articoletto dove abbiamo messo tutti i podcast. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento sulle nostre frequenze e invitarvi a quello che è l'aperitivo, l'open day qui a Radio Città Fugico fra un'oretta circa alle 18, per concludere questa stagione radiofonica, bere qualcosa, mangiare qualcosa, stare bene insieme. Vi aspettiamo, a dopo.